la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Lei se la ricorda quella strada, quella notte buia e poi luce di lampioni gialla e un vuoto che non ha riempito mai. La prima volta di oggi ha come protagonista Tommaso Zanello, un musicista romano, più noto al grande pubblico come Piotta, una storia che inizia a Roma negli ambienti dell'hip hop e che procede con l'impegno nella musica e nel sociale. Ed è in fondo questa la prima volta di Piotta. Camice bianco, freddi labirinti, ascensore verso il basso. Alita rancore, premedita vendetta. La presa si fa stretta quando Marco grida zitta. Pulla specchi rotti, sputi schiaffi in faccia. Cade si in ginocchia, lei non parla gocce nere. Come rimel sulle guance finché cedono le gambe. Strozza le domande finché pelle si fa sangue. La paura sta in silenzio ed è spavento senza fine. Fine da spavento senza petali ma spine. Amore, crisantemo. Guarda, esattamente da cosa nasce, non so dirti se c'è un incipit, cioè un momento specifico. Credo, per quanto riguarda il lato strettamente musicale, che magari con i primi lavori il rapporto tra brani più ironici, sarcastici e quelli, diciamo, cosiddetti più seri era preponderante, no? Il peso di quelli appunto più divertenti, ma non perché fossi meno impegnato io, ma perché magari mi sembrava, essendo agli esordi, magari per timidezza, magari per minore esperienza, di non poter essere una voce importante, no? Carismatica in tal senso. Poi il tempo passa, la vita si fa anche un po' più di trincea, perché mano a mano quelli che erano, no? Quelli che erano in prima linea, cioè i tuoi genitori, o non ci sono più nel caso di mia madre, invecchiano, per cui sei tu che sei in prima linea e quindi tante cose vuoi le vedi in prima persona e in prima persona vuoi raccontarle. Nel frattempo cresci anche, per cui penso che hai anche maggior appunto esperienza e carisma per poterle non solo raccontare ma anche poter rappresentare in prima persona in contesti dove magari sono tematiche dibattute, se penso a cose che hanno riguardato magari il nucleare piuttosto che i Rom, piuttosto che altre cose ancora, insomma, magari con Amnesty o con altre associazioni. Ecco, con Amnesty che cosa stai facendo adesso, anche per dare un po' un quadro attuale? Ah, con Amnesty devo dirti che è la terza volta che sono finalista, sì, al premio, sì, Amnesty International. E non c'è due senza tre, magari non ci sarà tre senza quattro. Ora devo dirti onestamente che mi piacerebbe vincere, ma davvero è già un po' una vittoria così, perché sono tre volte, sono le ultime tre, quindi degli ultimi tre album c'è, cioè, sempre stato un brano che è stato selezionato poi dalle persone, insomma, per partecipare appunto alla finale dei 10 brani scelti. Tra l'altro quest'anno sarò anche un po' in due brani, perché in quello del Muro del Canto, che è un gruppo che stimo molto, di colleghi romani un po' meno noto ma di estrema bravura, c'è un videoclip che si chiama Figli come noi, dove poi ci sono anche io, insomma, che ho fatto un cameo insieme a Elio Germano e altri amici comuni. E devo dirti, al di là appunto poi della vittoria, è già comunque una vittoria, perché vuol dire che, insomma, tutti gli ultimi lavori vanno nella direzione che io ho voluto dare, non solo per me, se a volte l'artista ha una visione un po' tutta sua delle cose, ma evidentemente sono riuscito anche a comunicare a tanti altri che il mio percorso va in quella direzione, non una tantum o in un brano, ma diciamo un po' a tutto tondo, insomma. Poi c'è da dire che proprio Amnesty, questa cosa forse la si dice poco, ha creato un mondo, no? In qualche modo, un mondo che si è messo in contatto, per cui non solo gli artisti, ma come dicevi tu, anche le persone, no? Che partecipano, fanno parte di un certo modo di vivere la vita, di impegnarsi e di chiedere anche maggiore impegno alle istituzioni. Assolutamente sì, tra l'altro non so nemmeno se posso dirlo, ma ormai lo sto dicendo. Dillo. No, perché sono stato molto orgoglioso del fatto che le persone che lavorano a Amnesty Italia mi hanno chiesto, diciamo, per i mesi a venire di voler ulteriormente collaborare con loro, anche supportando, diciamo, a livello personale, cioè che sia un palco, che sia magari la pagina Piotta su Facebook, per dire, uno dei social network, alcune delle loro iniziative che magari io verso le quali mi ritengo particolarmente affine o vicino, e questo oggettivamente mi ha fatto piacere, perché evidentemente anche lì si percepisce che quello che posso dire, al di là che sia in rima o in prosa o semplicemente scritto su un posto o detto da un palco, comunque ha un suo peso, pur non rappresentando logicamente nessuna istituzione, sì, né appunto internazionale né tantomeno politica, semplicemente quella di un cittadino come tanti altri, che forse un po' diversamente da tanti altri lo fa anche con la musica, e quindi sicuramente ha questa marcia in più, no? Velocemente la musica può passare di bocca in bocca, di orecchio in orecchio, e far passare appunto alcuni messaggi anche a volte complicati o pesanti in maniera un po' più apparentemente leggera, e quella è la forza, perché poi comunque acchiappa dentro anche ragazzi o ragazze più giovani su tematiche che sono poi il loro presente e anche il loro futuro e il nostro futuro. Senti, tu hai introdotto proprio all'inizio di questa intervista la figura di tua mamma. Io ho visto che tua mamma era milanese, tuo papà è rumano. Com'è stata la tua famiglia? Com'è stata la tua infanzia? Ma la mia infanzia è stata bellissima, nel senso che la riviverei mille volte, non mi è mancato nulla, soprattutto dal punto di vista dell'amore dei genitori, una grande unità familiare. Al di là che fosse una famiglia eterosessuale, no? Tanto per no, sembra che sì, fa, sì. Adesso bisogna ribadire ogni volta, sennò... e l'amore soprattutto che è stato immenso, quindi logicamente quando è venuta meno è stato un grande dolore per tutti. Devo dirti poi onestamente che forse più di tutti per mio padre come compagno di vita, perché per te, penso per ogni figlio, per quanto sia una perdita devastante, comunque già nel momento in cui nasci c'è un sottotesto che ti dice che tendenzialmente, essendo tu più giovane, essendo figlio, comunque questa perdita dovrai prima o poi subirla e confrontarti emotivamente. Purtroppo è venuta un po' troppo presto, però ecco, forse la sofferenza maggiore è stata la sua, insomma, non riuscire poi a darsi in qualche modo una risposta, tanto insomma che ne soffre tuttora. Però ecco, visto che il legame era molto forte, insomma ci vediamo tutti i giorni, sia con lui che con mio fratello, per cui insomma una famiglia molto unita prima, anche adesso, e spero insomma il più a lungo possibile. E questo contrasto Roma-Milano anche un pochino c'era a casa, ma in maniera sempre molto leggera e divertente, cioè, anche perché combaciava anche il carattere, combaciava un po' con quello che poi secondo me sono solo dei cliché, però insomma mia madre si era molto stacanovista, precisa, attentissima su tutto, mio padre molto più battute, sì vabbè Tina, perché si chiama Antonietta, non ti stressare, stai calma, cioè, non è gravita, no, dobbiamo fare, e quindi c'era molto questa cosa. E poi per quanto stesse a Roma da una vita, perché era venuta che c'aveva 15 o 16 anni, comunque c'aveva ancora queste rosette romane, erano le amichette, e questo tre, detto proprio tre, e quindi lo prendevo sempre in giro, dicevo 16 e 3, no, tre. E anzi, questo contrasto è anche aumentato specialmente nei brani degli esordi, invece questo è il mio lato un po' più preso da mio padre di romanità, che poi al netto di tutto, superata questa generazione, andando un po' a ritroso, i quattro nonni, che non ci sono più, erano tutti dell'est italiano, però Venezia, Treviso, Udine e poi un pugliese. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Piotta per lo maschio come Lando, un urlo, un lampo, il capone sul palco. Il super capone, eccolo qua, più che il suo nome non lo scorda. Muovi la mano, di qua e di là, fammi la bene, non te ferma. Il super capone, eccolo qua, più che il suo nome non lo scorda. Muovi la mano, di qua e di là, fammi la bene, non te ferma. Questa che che state sentendo è una delle canzoni che hanno reso celebre Tommaso Zanello in arte Piotta, che è l'ospite della puntata di questa sera. Un rapper romano che, giocando con una certa romanità, era diventato famoso in tutta Italia. Un personaggio dal quale sarà difficile anche smarcarsi, ma che, come vedremo, darà la possibilità a Tommaso di dare voce anche agli ultimi. Faticare, bisogna sempre faticare, però devo dirti che forse è stato anche cioè nel male c'è stato anche un bene, cioè la cosa è un po' sfuggita di mano, onestamente, perché in pochissimi mesi mi sono ritrovato sulla bocca di tutti con un genere che ora è sulla bocca di tutti, il rap, ma all'epoca lo facevamo in maniera così popolare in cinque, cioè io, Franky, gli Articolo, Sottotono e penso forse Caparezza era appena cominciato. Tra l'altro tu eri un po' il rappresentante di tutta l'area romana in qualche modo. Sì, diciamo quello più noto dell'area romana, ma il mio gioco era molto più, se vogliamo, più alto e più linguistico, cioè anziché rubare parole del gergo americano, dello slang del Bronx, che logicamente è lontano chilometri e chilometri da Roma, usare invece quello che era il linguaggio del quotidiano romano, che poi era lo zio che si sente in televisione e anche a Milano, anche se nasce penso come parola usata soprattutto nello slang romano, il bella, tutte queste cose qua che all'epoca facevano un po' folklore. E quindi purtroppo l'analisi musicale, linguistica, è anche perché i giornalisti che affrontavano musica nei 90 veramente dell'hip hop non sapevano nulla come cultura, è stata abbassata a livello di costume e società, che tu mi insegni è tra le più pericolose della storia dell'umanità, perché praticamente va di moda i mesi caldi e poi deve passare di moda nei mesi invernali o viceversa, e quindi un po' uscire da questo cerchio e far invece percepire, guarda, no, c'è un discorso musicale, artistico, nel tempo spero che lo coglierete, lo capirete. Quindi mi sono armato di tanta pazienza e tanta volontà e anche tanto studio, che quello non guasta mai, intendo soprattutto in ambito musicale. Cosa hai studiato? No, beh, ho preso lezioni di canto, perché logicamente poi col primo tour di, non so, 77 concerti in 90 giorni avevo le corde vocali e la gola spaccate, quindi ho imparato a usare il diaframma, a cantare meglio, a conoscere un po' l'armonia, a conoscere gli strumenti studio al di là del computer. Quindi insomma lo studio è importante su tutti i fronti, e nello specifico gente parlavo di quello più tecnico musicale, però è stata anche una sfida, cioè questo piccolo scoglio che si è creato è stato anche un grande stimolo, cioè una voglia di dire, va bene, tu pensi che io sia così, vabbè, ora ti faccio vedere esattamente che quello che invece io ho in testa. L'accelerazione grossa, onestamente, c'è stata quando poi è scomparsa mia madre, perché fino a lì ho sempre detto, vabbè, tanto faccio le cose piano piano, c'è tutto il tempo. Questo mio rapporto col tempo è cambiato esattamente in quel momento, perché ho capito che al di là di tutto è l'unica cosa che davvero è imponderabile, e poi comunque sicuramente noi lo spendiamo sempre, quindi forse il segreto è spenderlo nel miglior modo possibile, cioè mentre altre cose sono di indubbia minore importanza, tipo i soldi, ora lo dico con tutto rispetto di chi è in difficoltà economiche, ma sicuramente possono andare e spero venire per chi ne ha bisogno, e il tempo sicuramente va e basta, per cui spenderlo nel miglior modo, il che non vuol dire vivere da pazzo e fare le peggiori cose con questa idea sempre un po' adrenalinica sopra le righe, ma invece impiegarlo bene, cioè per quello che sentiamo che è giusto per noi, che ci fa stare bene e diventare delle persone anche migliori magari di come siamo partite. Secondo te quanto oggi, diciamo, tu hai fatto un percorso e lo hai ben raccontato anche proprio quando hai parlato delle corde vocali, del fatto, cioè tu venivi da una certa situazione, eri un ragazzo molto giovane, ti sei ritrovato davanti il successo, l'hai affrontato, hai cercato anche appunto di crescere, ti sei smarcato dall'immagine che avevi creato a tua insaputa, diciamo, no? Però dietro c'era tutto un mondo, l'hai descritto, no? Cioè, c'era il mondo di Franky High Energy, c'eri tu, c'erano gli Articolo 31, c'era tutto un mondo e come dire, una serie di ragazzi che facevano parte di questo mondo, che hanno permesso poi a te di diventare quello che sei diventato. Oggi, secondo te, nel mondo dell'hip hop si respira la stessa aria? Cioè, c'è quell'anima che c'era negli anni 90? Ma guarda, sicuramente le cose sono cambiate, e non solo banalmente perché appunto passa il tempo, ma perché diciamo anche il... mentre prima eravamo 4-5 nomi che smuovevamo anche, e smuoviamo insomma numeri, persone, interessi anche di natura economica, adesso è l'hip hop in generale che riesce a fare spesso dei numeri importanti. Di conseguenza questi numeri hanno attirato un po' di tutto, c'è il buono e c'è anche la feccia, nella feccia ci sta tutto un, lo dico alla romana, c'è un magna magna di interessi che va esattamente all'opposto dell'importanza dei contenuti, dell'immagine, di un'idea anche di un hip hop che possa raccontare la società di oggi, però cercando di migliorarla più che non raccontarla beandosi dello schifo di cui a volte è, per cui cioè nel senso per me che il rapper diventi il rapper da privé di un discoteca con la boccia di champagne è un abominio, però c'è anche quello, se lo racconti come ho fatto io, anche se appunto a volte è stato frainteso in maniera invece sarcastica, cioè come presa in giro del rapper americano che ha questa idea, allora è un altro paio di maniche. Per di più quello americano c'era tutta una visione comunque che partiva da una situazione di disagio del ghetto ed era insomma una rivincita, anche se poi secondo me la rivincita deve essere sempre culturale, perché quella è la vera rivincita di una persona che riesce con pur partendo da pochissimi mezzi a farsi una cultura e quindi una libertà propria, per cui può comunque dire quello che pensa e anche cercare di portare la società nella direzione che lui considera giusta. Logicamente nessuno ha bacchetta magica o può ritenersi la perfezione o il bene assoluto, però diciamo sicuramente c'è un percorso, una tendenza che va in certe direzioni e quindi sicuramente è cambiato tanto, però devo dirti che è talmente ampio il movimento che comunque dentro ci sono un po' tante anime e a volte anche se è lo stesso genere musicale sono anime in forte conflitto tra di loro, e questa è anche la forza dell'hip hop, cioè un genere che è così grande che poi contiene all'interno altrettanti sottogeneri che sono in conflitto tra di loro, per cui apposta anche quei continui dissing, parlare male o bene di qualcuno, alcuni sono fatti per motivi veramente di furbizia, no? Di smuovere sì. Un po' di commenti su un bel po' di commenti sui social, magari trarne un profitto, altri invece sono proprio sentiti, cioè perché ognuno un po' si sente portatore di una lettura dell'hip hop che dovrebbe andare in una certa direzione con certi contenuti e una certa immagine e quindi appunto si creano queste dinamiche che a volte però insomma fanno nascere qualcosa di davvero interessante e ci sono insomma al momento c'è un rapper romano che si chiama Mezzo Sangue che ho seguito fortissimo, ha sì. Dei testi molto impegnati, cioè per la sua generazione dice ammazza, cioè figo, sembra che invece è mutuato dal periodo degli assalti frontali . C'è Willy Peyote che è un rapper torinese, anche lui molto interessante con dei testi molto fighi, ma ce ne sono parecchi, magari sono leggermente meno famosi, ma per dire Mezzo Sangue è uno comunque che riempie i locali dei super club, cioè da più di 1500-2000 persone e non a caso al momento non ha stretto nessun patto con diciamo quella che è la discografia abituale che logicamente ha altre esigenze, altri contesti e si muove insomma in maniera più mainstream. L'ultima domanda che volevo farti era invece se avevi un episodio, qualcosa che ti ha veramente inorgoglito. Ogni volta che cioè, il mio più grande stupore c'era ogni volta che vado a suonare all'estero, perché cioè, in quel momento in cui atterro in quel posto ripenso sempre a quando ho cominciato a scrivere la mia prima rima sui banchi di scuola e magari anche bonariamente gli amici o i compagni di scuola dicevano ma che è sto rap, ma chi lo conosce, ma che ci fa, cioè e per non dire poi mia madre che proprio vabbè, ci mettevo con il carico e quindi penso sempre a me stesso più giovane, piccolino e dico però ammazza quanto coraggio ci ho avuto, perché col senno di poi è più facile, però all'epoca veramente è stata solo passione, quel coraggio un po', insomma, a volte degli adolescenti. Sono orgoglioso di quel me stesso, insomma, di allora, che lottò in tutti i modi, anche contro la famiglia, per poi portare avanti questo percorso, ma non adesso che ti si faccio l'hip hop, bah, boh, in effetti, cioè, sembra che funzioni veramente, dove la gente ti dava dello squilibrato, cioè, perché cosa, come si chiama, come si dice? Siamo ai saluti finali per questa puntata che, come avete sentito, ha dato largo spazio ad Amnesty e alla sua iniziativa Voci per la Libertà. Se siete artisti e volete far sentire la vostra voce sui diritti umani, c'è il concorso per emergenti. Tutti gli aggiornamenti sono sul sito ufficiale www.vociperlalibertà.it. A me non resta che salutarvi, augurarvi un buon inizio di settimana. Se volete potete venire a trovarci sulla nostra pagina Facebook Radio24-la prima volta, oppure potete riascoltare le puntate andando sul sito di Radio 24. Buona serata a tutti da Cristina Carpinelli. Chi blefa scala, fredda come l'Artico Sahara, dentro le coperte tu in questa notte che te non ci sei, nuda come Roma, ed è così che ti vorrei, che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai, donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di luciada che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ma non perdona. Roma derivora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ma non perdona. Roma derivora come in barracuda, Roma.